lo dico davanti a quella persona che conosci tu, non tuo padre, vabbè. Quella persona che lo sai chi no. Così ti ha un bello schiaffone, capito? Ti fa girare dall'altra parte. Comunque altro, non ci parla più con te, capito? Questo sia ben chiaro. Oppure se vuoi parlare con te, continuare, tanto già sta arrivando la volante giù a casa tua. Chi è che ha incominciato ieri a dirmi fesserie? Avanti. Adesso, se tu sei uomo, dimmi la verità, chi è che ha incominciato? Tutto ha seguito te, no? Perciò adesso, che puoi divertire stanotte auto a parlare con te, capito? Bello sarebbe. Tanto ho fatto sentire Barchino a 113, come vi comportate bene, capito? A me non mi interessa nulla, capito? Tu puoi fare quel che ti fa ti piace. Ad auto, perché sono curioso, perché fino a che parla con te, io non mi va, capito Alberto? Può parlare con te, però di parlare bene, non a dire, pigliamo per il culo Falcone, quella, succhiami il cazzo, fammi questo, fammi quell'altro. Adesso di 24 ti fai di piace, che io non ce l'ho con te, ti ho detto, e lui, tu auto non ti chiami, no, e allora fatti la parte. Che va a succhiare i cazzi e che va a fare quello e che va a fare quell'altro. Adesso io sto fermato al 113. Stai attento che fra poco ti suona il campanello. Auto, che lo so perché ce l'ho con te, no? Tu non mi credi a me, no? Tu credi che io ti sto prendendo per il culo, che tu dici che io ti sto prendendo in giro. Adesso vedrai quando arriva l'acquisto a casa tua, non preoccupa. Vediamo se di un all'altro mi rispetti, almeno a me. Poi, con Graziano puoi fare quel che ti pare di Biaggi, capito? Con Graziano, però. Capito? Quante volte siamo usciti insieme? Quante volte ti ho detto la verità a te? Eh? Sì, ho capito, Facò, però non fai sempre di testa tua. Se dici ho tolto ho ragione, no? Ho tolto anche le scatole al zebra, al signor Matteus, eh? Finché che non hanno cambiato numero. E mi basta solamente una persona che abita qua vicino a casa e boh. Se poi quello mi prende per il culo, a me non mi ha fatto un cazzo. Tu ancora non hai compreso.